Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. 1-0 up. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile. Di Riccardo Chiaberge. Bentornati alla nostra finestra settimanale sulla cultura internazionale. Povera e nuda vai archeologia. In questi giorni in Italia si discute moltissimo e accanitamente del futuro dei musei, dei tagli ai fondi pubblici destinati al nostro patrimonio artistico e culturale. Le dimissioni di Salvatore Settis dalla presidenza del Consiglio Superiore dei Beni Culturali sono il segnale più clamoroso del malessere dei contrasti che dividono il mondo dell'arte in Italia. Ma anche in Grecia le acque in questo settore sono piuttosto agitate. E parliamo di acque non a caso, perché uno dei principali pomi della discordia è proprio l'archeologia sottomarina, esposta al rischio dei saccheggi e dei furti a opera dei sub. Di questo ed altro parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il nostro menù. Francia, largo ai mancini. Artisti, scienziati e sportivi rivendicano la dignità della mano sinistra. Stati Uniti, orgoglio, pregiudizio e zombie. Un'interpretazione in chiave horror del classico di Jane Austen. Svizzera, dov'è finita Cassandra? Secondo il giornalista Joachim Gunther, oggi manca una voce che denunci i pericoli delle manovre economiche protezioniste. Grecia, SOS archeologia. Il Mediterraneo viene depredato ogni giorno dai sub per colpa di leggi troppo permissive. Indonesia. Inaugurato a Banda Aceh il museo dello tsunami per ricordare le vittime della tragedia del 2004. India. Giù le mani dallo yoga. L'India vuole proteggere la disciplina dai pirati occidentali. Il più grande museo del mondo è sotto il mare e rischia di essere depredato e di scomparire. Stiamo parlando del mare che circonda la Grecia e di quegli straordinari tesori che ancora racchiude. Il grido di allarme viene da un giornale libanese, Al-Watan Daily, che parla appunto della nuova legislazione introdotta dal governo greco che di fatto liberalizza per promuovere il turismo l'accesso a tutte i fondali che circondano la Grecia, praticamente 15.000 chilometri di costa, che vengono praticamente aperti all'accesso di tutti i cacciatori subacquei, eccetto 100 siti archeologici ben noti e delimitati, ma tutto il resto insomma rimane alla mercé di chiunque con le pinne, il fucile e gli occhiali si voglia avventurare negli abissi del mare Egeo, del mare greco. E tra l'altro l'esempio che viene fatto subito nell'articolo è di un torso ritrovato nell'isola di Kalymnos nel 2005 da un pescatore, e questo pescatore è diventato ricco perché ha guadagnato ben 440.000 euro che gli sono stati versati dal governo greco per venire in possesso di questa straordinaria statua. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono il nostro ospite, al quale diamo il benvenuto, il professor Salvatore Settis. Grazie di essere con noi. Sono molto contento di esserci. Ecco, Salvatore Settis, archeologo, storico dell'arte, direttore della Scuola Normale di Pisa. Non parliamo con lui della vicenda che lo ha visto protagonista in questi giorni delle sue dimissioni dalla presidenza del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, parliamo di questioni di archeologia subacquea, che è questo tema che poi riguarda anche l'Italia, visto che anche l'Italia c'ha molti migliaia di chilometri di coste e tantissimi tesori nascosti. Ecco, che cosa nasconde ancora, secondo lei, il fondale del mare greco? È difficilissimo rispondere. L'unica cosa che è certo è che nasconde ancora moltissimo. E vorrei fare due considerazioni. Uno, nei relitti che si annidano nel fondo dei mari, in particolare nel Mediterraneo, si trovano a volte dei dati straordinariamente importanti per la storia economica del mondo antico, per esempio interi carichi di anfore in cui si può vedere attraverso quello che c'è da dove venivano le navi, che cosa trasportavano, delle volte sulla base del carico si ricostruisce l'intera rotta. E data la mancanza di archivi del mondo antico, a parte i papiri che si trovano in Egitto, i relitti spesso fanno le veci di un archivio, perché danno immediatamente il senso di eventi storici che altrimenti non conosceremmo. Sono delle banche dati, diciamo, dati giganteschi che ovviamente, per poter dare tutto quello che devono dare, che possono dare, richiedono uno scavo accurato, richiedono l'arrivo degli specialisti. Se invece ogni sommozzatore si porta via un'anfora, si perde l'insieme, si perde il contesto, si perde il nesso fra i vari oggetti e dunque si perde il senso. E si perde la memoria, insomma. E si perde il senso della memoria, cioè perdiamo un pezzo di questo gigantesco archivio che i mari hanno conservato per millenni. Questa è una prima cosa. Una seconda cosa sono le statue di bronzo in particolare. Le statue di bronzo nell'antichità ce n'erano moltissime, basta ricordare che nella sola santuario Olimpia sembra che ce ne fossero 6.000, mentre invece accidenti. Noi di bronzi greci in tutto il mondo oggi ce ne saranno 100 più o meno, fra cui i bronzi di Riace sono i più famosi. Ma, e quindi tutti gli altri dove sono finiti? Appunto. Tutti gli altri sono stati prevalentemente trafugati. Trafugati, molto spesso trafugati dai romani per portarli in Italia, decorare i templi, i ville, eccetera, eccetera, però qualche volta queste navi che li trafugavano, e il caso probabilmente dei bronzi di Riace, sono naufragate e quindi ci hanno salvato qualche oggetto. Però fondamentalmente quasi tutti i bronzi greci che noi conosciamo vengono dal fondo del mare, e naturalmente è chiaro che se li lasciamo trovare ai sommozzatori che non sanno nemmeno bene come trattarli, è molto facile che questi oggetti fragili che sono rimasti magari 2000 anni sott'acqua si possano spezzare, che magari di un oggetto si levi alla sola testa, non ci si accorga che ci sono le gambe a qualche distanza, e anche qui si perde, se si perde il nesso fra la statua e il relitto non si capisce bene quando è accaduto il naufragio. Qui ci sono dei casi anche sensazionali, ora parlando dell'Italia. Ecco, appunto, stavo per dire, come è regolata la materia in Italia? In Italia, in tutte le coste italiane, secondo la legge italiana, nell'area marittima che fa parte del territorio italiano, che non so quant'è, mi pare che sia 15 o 20 miglia marittime dalla costa, in tutta quell'area è come essere sul suolo d'Italia, e quindi intervengono le soprintendenze. In Sicilia c'è addirittura una soprintendenza del mare, e si parla anche della creazione di una soprintendenza del mare per il resto d'Italia, e in questi casi l'Italia rivendica la proprietà come stato di quello che si trova nel mare. Questo è il caso, per esempio, del famoso satiro di Mazara del Vallo, che si è trovato nelle acque territoriali, o secondo alcuni poco fuori, ma in ogni modo da pescatori italiani, mentre più controverso è il caso del cosiddetto bronzo Getty, da alcuni attribuito, io credo falsamente, a Lisippo, che è un bronzo molto interessante che si trova al Museo Getty, di cui l'Italia è la restituzione, e il Getty invece nega che si sia trovato in acque territoriali italiane. Quindi la materia in Italia è regolata molto bene, è un vero disastro questa nuova legge greca, che mostra per la prima volta, con la grande tradizione che la Grecia ha in questo senso, un allentarsi della tutela in un paese amico e vicino. Bene, noi ringraziamo il professor Settis, a presto. E adesso ci spostiamo in Indonesia, e precisamente a Banda Aceh, capitale della provincia di Aceh, dove una grande costruzione fatta a forma di nave è stata inaugurata nei giorni scorsi ed è il museo dello tsunami, perché per l'appunto l'Indonesia e quest'isola in particolare fu investita dall'onda anomala che provocò quella orrenda catastrofe che tutti ricordiamo il 26 dicembre del 2004. Il museo di 2500 metri quadri racconta sostanzialmente, mette in mostra quella che è la cultura del popolo Aceh e delle case costruite in un modo tradizionale che però hanno resistito meglio di altre costruzioni all'impatto della catastrofe e sono case su palafitte. Beh, certo che un museo costato 5,6 milioni di dollari avrebbe potuto essere tranquillamente sostituito con una serie di palafitte d'oro. E adesso andiamo in India, dove il governo di New Delhi difende le tradizioni del paese, in particolare in campo medico e sanitario, contro la pirateria delle industrie farmaceutiche occidentali. Hanno addirittura costituito un enorme banca dati digitale di 30 milioni di pagine, compilata in 8 anni da un team di 200 scienziati indiani, che raccoglie tutte quelle che sono le specialità della medicina ayurvedica, ma perfino le pratiche yoga, con 600 posizioni o asana che sono caratteristiche di questa tecnica indiana. E tra gli altri, uno dei principali accusati di pirateria è un docente di yoga che sta a Beverly Hills, e quindi immaginiamo insegna agli attori di Hollywood, che però è di origini indiane, tale Bikram Chuduri, il quale sostiene di avere inventato 26 posizioni, e naturalmente il governo indiano gli contesta questa cosa e sostiene che lui ha rubato il copyright. È un mercato di 225 miliardi di dollari quello dello yoga in Occidente e quindi fa gola a molti. Certo che se l'India si mettesse a brevettare anche le posizioni del Kama Sutra, ci manderanno gli esattori in camera da letto per incassare le royalty. La finestra sul cortile. Forse non ve ne eravate accorti, ma in Europa e nel mondo è il grande momento della sinistra. Questo è quanto ci annuncia Emmanuel Peyré sul quotidiano francese Libération. Ma non si riferisce alla sinistra in senso politico, la quale, come vediamo, le cui fortune insomma non sono così luminose, bensì alla mano sinistra, al fatto che i Mancini in questo momento sono sulla cresta dell'onda. Dice l'articolo di Emmanuel Peyré su Libération, dal titolo Les gauchers sur un pied d'égalité, dice quantomeno sono su un piede di uguaglianza, prende spunto dal fatto che il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è per l'appunto mancino. L'abbiamo visto tutti in televisione quando firmava le sue prime leggi da presidente alla Casa Bianca e con la mano sinistra. E quindi, commenta Peyré, sono due minoranze che sono entrate alla Casa Bianca, non soltanto un nero ma anche un mancino. Continua Peyré, la cosa interessante da notare è che molti grandi geni del passato, da Leonardo da Vinci a Michelangelo a Einstein, erano manciti, e tant'è vero che alcuni studiosi di scienze cognitive sostengono che i mancini hanno questa superiorità perché hanno più spazio libero nell'emisfero destro del cervello e quindi possono liberare la loro creatività. Peraltro, in passato, come spiega un libro di Pierre-Michel Bertrand, storico del mancinismo, diciamo così, questa condizione era stata repressa e considerata inferiore. Addirittura, alla fine dell'Ottocento, la cultura positivista considerava i mancini dei degenerati, degli infermi, degli anormali o addirittura dei mostri. E tant'è vero che nonostante poi questo tipo di condanna sia stata superata nei fatti, gran parte degli oggetti che ci circondano nella vita quotidiana, compreso non so, la porta del frigorifero, oppure gli apriscatole o le maniglie delle porte o i manici delle casseruole, sono stati pensati e disegnati per le persone che usano la mano destra e non per i mancini. Ma per parlare di questi temi abbiamo al telefono un ospite che salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi. Benvenuta Silvia Vegetti Finzi. Grazie di questo invito. Silvia Vegetti Finzi è psicologa, psicoanalista e tra l'altro autrice di Una storia della psicoanalisi e di molti altri libri. Il suo più recente è intitolato Nuovi nonni per nuovi nipoti, la gioia di un incontro, è pubblicato da Mondadori ed è docente di psicologia dinamica all'Università di Pavia. E professoressa Vegetti Finzi, questa condizione del mancino noi l'abbiamo vissuta, posso dire noi perché insomma apparteniamo alla stessa generazione, insomma prima del 68 i bambini che usavano la sinistra venivano repressi in famiglia, a scuola, dicevano usa la manina bella, vero? Sì, era una grossa costrizione che spesso dava luogo a problemi di linguaggio, perché molti bambini durante appunto questa determinazione assurda che subivano rilevavano poi difficoltà del linguaggio come la balbuzie, perché il mancinismo appunto, come lei diceva, è collegato per la lateralizzazione, l'incrocio delle emittenti cerebrali alla parte destra del cervello, e quindi spesse volte questa interferenza produceva appunto disturbi del linguaggio come la balbuzie o l'accavallamento di sillabe, però questa, io condivido questa prospettiva diciamo così ottimista, anche perché fa parte dell'ennesimo processo di liberalizzazione degli atteggiamenti e dei comportamenti. Certo. E vorrei ricordare che i mancini sono in continuo aumento perché è venuta meno la costrizione e si pensa che prima o poi dovranno raggiungere il 50% della popolazione. Accidenti. Quindi forse sarebbe anche il caso di pensare dei nuovi utensili, di pensare a delle a nuove modalità di presa fatte per entrambi i lati del cervello, nel senso che si rivolgano a persone che hanno una capacità di usare sia la destra sia la sinistra, come peraltro appunto Leonardo da Vinci, che usava entrambe le mani, non era solo mancino, ma come sappiamo aveva una scrittura speculare. Certo. Cosa che avviene soprattutto nei mancini, questa capacità di scrivere come in uno specchio. Quindi speriamo che Obama adesso promuova così anche nuove forme di design e di oggettistica destinata al valga per entrambi, che non sia più così specializzata, ma che valga per gli ambidestri, perché in fondo la cosa ottimale sarebbe utilizzare tanto la destra quanto la sinistra, così anche nel caso di incidenti si potrebbe essere più sciolti nel cambiare la modalità di utilizzare un arto piuttosto che l'altro. Ricordo però che in tutte le culture prevale l'uso della destra, direi che questa è una caratteristica dell'umanità, anche se, come dicevo, questa caratteristica, questo privilegio va diminuendo col tempo, quindi tutte quelle ingiunzioni che abbiamo ricevuto, che lei giustamente ha elencato, ricordo tra l'altro che nel Medioevo era un indice di stregoneria l'uso della mano sinistra, dovranno sparire, e io spero che appunto si rivelino complementari le due parti, così come sono di fatto, e che uno possa utilizzare tutte le facoltà cerebrali senza avere una messa in gerarchia, ma a seconda delle situazioni, a seconda delle richieste dell'ambiente, posso utilizzare l'emisfero destro e l'emisfero sinistro liberamente. Ecco, lei che ha scritto un'importante storia della psicoanalisi, Freud diceva qualcosa a proposito dei mancini? Ma che io ricordi non credo, però una cosa che dice la psicoanalisi, in particolare Adler, che tutte le difficoltà e i problemi organici, fisici, poi si risolvono molto frequentemente in superiorità sociali. Quindi il fatto di dover combattere con una difficoltà fisica fa sì che la persona acquisti poi una determinazione, una forza e un'autostima che danno luogo appunto poi a delle superiorità sociali. Bene, noi ringraziamo Silvia Vegetti Finzi, a presto. Grazie e alla prossima. Orgoglio, pregiudizio e horror. Sulle pagine del New York Times scopriamo che uno scrittore di Los Angeles, uno sceneggiatore televisivo, tale Seth Graham Smith, si è divertito, per così dire, a riscrivere il capolavoro di Jane Austen in versione horror, popolando le pagine del romanzo con zombie e morti viventi. Forse è un tentativo di aggiornare un classico della letteratura inglese per un pubblico di ragazzi cresciuti a videogame. Ma c'è di peggio, ed è che l'anno prossimo tale Thomas Ford promette un romanzo intitolato Jane Bites Back, Jane morde ancora, in cui addirittura la Austen viene trasformata in un vampiro. Non sarà che i vampiri siamo noi, incapaci di inventare qualcosa di nuovo e costretti a succhiare il sangue ai grandi classici? E ora ci spostiamo in Svizzera, dove sulle colonne della Neue Zürcher Zeitung Joachim Gündner si chiede dove sia finita Cassandra, perché secondo il corrispondente dalla Germania del quotidiano svizzero, di motivi per tremare oggi ce ne sarebbero molti. Secondo Gündner, le manovre economiche escogitate dai governi per placare l'opinione pubblica in preda all'ansia da recessione non sono altro che costruzioni mostruose, apportatrici di sventura, come lo fu un tempo il cavallo donato dagli Achei ai Troiani. Ci vorrebbe una Cassandra che avvertisse dei pericoli insiti nelle misure di nazionalizzazione. Peccato che se anche una Cassandra ci fosse, come vuole il mito, non l'ascolterebbe nessuno. E per questa puntata è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Vittoria Mussini e Daniele Casagrande in redazione, Giorgio Mattè in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiabergi vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.